Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Io sono un automobilista ed essendo un automobilista sono sempre costantemente incazzato come una bestia. Eh già, per noi l'automobile è un mezzo di trasporto ormai parte integrante delle nostre vite. La usiamo per fare tutto, la spesa, una gita, per lavoro. È diventata uno status symbol, la amiamo, facciamo il pieno, la portiamo dal meccanico, ci arrabbiamo imbottigliati nel traffico e ci scherziamo anche su. Ma è stato così da sempre? In realtà no. C'è stato un tempo in cui l'automobile era appannaggio di pochi pionieri della strada. Non si può dire chi ne sia stato l'inventore. Nell'Ottocento nascono modelli a vapore, a gas, a benzina, diesel, in varie parti del mondo. Quello che è certo, però, è che fino ai primi del Novecento non ne esiste una produzione su vasta scala e i mezzi più diffusi di spostamento fra la gente comune sono per il momento il treno, la nave e le carrozze trainate dai cavalli, che però sono scomodissime, come ricorda l'esperto di mezzi di trasporto Mark Broadbent. Viaggiare in carrozza era molto scomodo. Non esistevano sospensioni. L'abitacolo era agganciato con cinghie di cuoio a quattro montanti. Il sistema che i vari produttori di automobili si inventano all'inizio del secolo per pubblicizzare i loro carri con motore e fare concorrenza alle carrozze è molto ingegnoso. Organizzano delle competizioni nelle quali i vari sistemi di propulsione vengono messi l'uno contro l'altro. Il pubblico assiste divertito. È l'inizio della storia delle gare automobilistiche. Oggi a Destini Incrociati vogliamo portarvi in un viaggio a ritroso nel tempo, dove si sta per concludere una di queste gare, forse la più temeraria mai compiuta al mondo. Di sicuro quella che rappresenta uno spartiacque nella storia dei mezzi di trasporto e segna l'inizio dell'era dell'automobile. La Tour Eiffel, che svetta nel paesaggio cittadino, toglie ogni dubbio. Siamo a Parigi. Le acque della Senna, immobili nella calura del pomeriggio del 10 agosto 1907, riflettono una moltitudine di persone accalcate e in trepidante attesa. Non solo francese si sente parlare, ma anche inglese, tedesco e soprattutto italiano. Queste persone seguono da due mesi sulle pagine dei quotidiani, quasi in diretta, le imprese di un'automobile mitica e del suo temerario equipaggio. In un luogo non molto distante, il motore di quella stessa automobile fa sentire il suo rombo. Sono 60 giorni esatti che questa vettura è partita niente meno che da Pechino. Al volante dell'auto siede un uomo alto e dal fisico asciutto, il volto scavato, calmo, padrone di sé. Egli ha alle spalle oltre 16.000 chilometri di strade spesso disastrate, a volte inesistenti, percorse sotto la pioggia battente o il sole più infuocato, accompagnato dalle grida di incitamento delle genti più diverse tra di loro. Quest'uomo è il primo personaggio di Destini Incrociati di oggi e il suo nome è Scipione Borghese. Scipione Borghese. Mentre a bordo della sua fida vettura, il pilota non sa se altri partecipanti alla gara lo precedano o meno, ma è certo che le sue gesta stanno per entrare a pieno diritto nella storia dell'automobile. Sulla mia torpedo blu è una vera fuoriserie, come senz'altro sei tu. Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu e saremo una gran coppia sulla mia torpedo blu. Scipione Borghese è dunque al volante della sua auto e mentre compie quei pochi chilometri che lo separano dall'arrivo nel centro di Parigi, ripercorre con la mente la sua vita, le sue passioni, quel suo essere sempre alla ricerca dell'avventura che lo caratterizza fin da giovanissimo. Con la coda dell'occhio vede seduto dietro di sé un uomo che lo ha accompagnato per chilometri e chilometri e il suo girarsi indietro a guardarlo è tutt'uno col tornare indietro nel tempo. Quello che oggi è il bellissimo parco naturale di Migliarino, riserva florofaunistica di grande bellezza in provincia di Pisa, alla fine dell'Ottocento è una sorta di paradiso terrestre selvaggio e incontaminato. È qui che l'11 febbraio 1871 nasce, nella casa di famiglia, Scipione Borghese. Il suo è uno dei cognomi più altisonanti della nobiltà italiana, le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Le prime notizie che si hanno dei Borghese li vedono mercanti in quel di Siena, ma successivamente divengono politici e annoverano tra i loro consanguinei addirittura un papa, Paolo V, e la grande Santa Caterina, che ha anche una parte determinante nella nascita del palio moderno. Ancora nuovamente verso il secondo, San Martino colloca con l'aquila che sta conducendo questo palio, seguito dall'oca, dalla pantera, la selva, l'istice, il drago. A dispetto dei suoi natali tanto illustri, può vantare infatti anche il titolo di principe, il piccolo Scipione ha ben altro per la testa. Mentre si fa strada tra il fogliame intricato della vegetazione che circonda la sua bellissima dimora, si sente in una giungla pronta per essere esplorata. E queste prime esperienze della sua felicissima infanzia segnano in maniera indelebile il suo futuro. Sono anni quelli in cui è appannaggio dei giovani rampolli delle famiglie nobili e benestanti realizzare imprese e compiere viaggi avventurosi in luoghi del mondo ancora inesplorati. Scipione dedica questa attività decisamente costosa, ma molto appagante, la sua esistenza. Il suo mito è Marco Polo, la cui impresa ebbe dell'incredibile. Il principe Borghese è anche un appassionato alpinista e mentre sta scalando una parete sui monti sopra Courmayeur conosce un suo coetaneo, Jules Brocherel, alpinista ed etnologo valdostano. I due si stanno subito simpatici e, detto fatto, organizzano una spedizione nella catena montuosa del Tien Shan, lungo la Via della Seta, per tracciare la cartografia della zona e scalare le vette più alte. È il 1900. Le sensazioni che Borghese sperimenta in questo viaggio sono straordinarie. Il senso di libertà più totale, la sete di conoscenza placata, la voglia di nuovi stimoli appagata. Un successivo viaggio lo vede nel Golfo Persico e la sua notorietà in Italia e anche all'estero cresce sempre di più. Ma ad attenderlo è la sfida più grande, quella che lo consegnerà alla storia, la più difficile di tutte, come ricorda molti anni dopo Giancarlo Aragona, l'ambasciatore italiano a Londra. A quel tempo potete immaginare la difficoltà che significò una sfida di quel genere. Come tutte le mattine, il principe, o come lo chiama la Roma bene, l'ufficiale inglese, sta gustando il caffè comodamente seduto nella splendida sala da pranzo della sua villa di Artena, alle porte di Roma. Il suo maggiordomo, come d'abitudine, gli ha consegnato i giornali italiani, inglesi, francesi e tedeschi, appena giunti con la posta. E lui sta leggendo distrattamente le notizie provenienti da tutto il mondo. A un tratto, un trafiletto incorniciato che spicca tra gli altri attira la sua attenzione. C'è qualcuno che accetti di andare nell'estate prossima da Pechino a Parigi in automobile? Ciò che deve essere provato è che se un uomo ha un'automobile può fare qualunque cosa e andare ovunque. La prima pagina del giornale parigino Le Matin del 31 gennaio 1907 mette in grande risalto con una grafica accattivante questo annuncio a dir poco folle. Ma chi mai può essere così pazzo da accettare un invito simile? Un percorso lunghissimo, dove la presenza di strade che possano definirsi tali non è affatto assicurata, dove non esistono stazioni di rifornimento e il tutto a bordo di un mezzo allora assolutamente inaffidabile quale l'automobile. Ora provate a pensare, un uomo immensamente ricco che adora i viaggi, l'avventura, che in quei luoghi impervi comunque c'è già stato. E chi lo ferma più? Scipione Borghese decide all'istante. Deve trovare il modo di partecipare a questa follia. Nelle orecchie gli sembra già di sentire il rombo graffiante dell'auto che lo porterà da Pechino a Parigi. Certo lui lo sa, organizzare un viaggio di questo tipo è un fatto complesso e richiede almeno due elementi sui quali poter contare ciecamente. Il mezzo giusto, cioè un'automobile sicura, affidabile, che non lo lasci a piedi alla prima difficoltà, e la squadra vincente, soprattutto un bravo meccanico. Scipione Borghese ha appena letto l'annuncio sul giornale francese Le Matin che propone un'impresa a dir poco folle, un viaggio in auto da Pechino a Parigi. Anche se per la gente comune in quegli anni l'automobile è un mezzo che non può in alcun modo essere paragonato ai piroscafi o al treno, per lui non è così. Si sta già pregustando il profumo del vento che incontrerà nelle lande desolate della Mongolia. Il principe chiama subito il suo chauffeur e meccanico di fiducia, Ettore Guizzardi, un romagnolo figlio di un macchinista ferroviere alle sue dipendenze da anni, dotato di conoscenze tecniche e di capacità di adattamento tali per poterlo assistere ad affrontare ogni circostanza. Mentre parla con lui e gli mostra l'annuncio, non sa che un po' più a nord, per la precisione a Milano, qualcun altro sta leggendo lo stesso giornale. Siamo al civico 28 di via Solferino a Milano, davanti al magnifico palazzo progettato dall'architetto Luca Beltrami sul modello della sede del Times a Londra, negli uffici del Corriere della Sera. Qui due uomini stanno leggendo Le Matin. Uno di loro è il grande direttore Luigi Albertini, colui che con la sua lungimiranza e competenza porta il giornale milanese a diventare il primo quotidiano d'Italia. Albertini sta ascoltando un suo giornalista che gli mostra il trafiletto riguardante una sfida lanciata dal quotidiano francese a tutto il mondo. La conversazione che si svolge tra i due è fatta di poche ma decisive parole. Che ne pensa, direttore? Beh, magnifico, ma è attuabile? Ah, questa è un'altra cosa. Ma anche se non riuscisse, il tentativo sarebbe pieno di interesse. Già, pieno di interesse. Albertini comprende all'istante cosa significherebbe per il suo giornale avere notizie fresche da un'impresa di quel genere. Ma come fare? Si sta parlando della lontanissima Cina. Suo malgrado non ha una soluzione. Il suo interlocutore, però, non è di quelli che si arrendono facilmente. Alcuni giorni dopo gli mostra un altro trafiletto, sempre su Le Matin. Vorrei iscrivermi alla vostra prova Pechino-Parigi con un'automobile italiana. Vi sarò riconoscente se vorrete farmi sapere al più presto ogni particolare, perché possa regolarmi nella preparazione. Firmato Principe Scipione Borghese. Un italiano interessato alla gara. Per il giornalista del Corriere, l'occasione è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Questo principe rappresenta il suo lasciapassare per la gloria e chiede al direttore il permesso di contattarlo. Ma chi è mai questo determinato e cocciuto giovanotto? Non un esploratore, ma un giornalista che non si arrende neanche di fronte a un'impresa a dir poco improbabile come la Pechino-Parigi. È il secondo protagonista di Destini Incrociati di oggi. E il suo nome è Luigi Barzini. Luigi Barzini. La famiglia Barzini vive ad Orvieto. Il papà è un sarto, la mamma casalinga. Luigi, fra tutte le materie a scuola, predilige l'italiano perché gli piace da matti scrivere. È anche bravo a disegnare, soprattutto caricature, gli sgorbi, come li chiama lui. Di soldi non ce ne sono. E appena terminata la scuola superiore, Luigi prende un treno per Roma. Ha chiuso nella sua valigia tutti i suoi vestiti, i suoi sogni. Mentre passeggia per le vie della capitale, riflette su quello che gli piacerebbe fare. Certo, scrivere. Però anche disegnare lo appaga molto. Ma ecco venirgli incontro una faccia nota tra mille sconosciuti. È un suo vecchio compagno di scuola, Ettore Marroni, che fa il capo redattore per il giornale Il Fanfulla. Un incontro fortuito che gli fa trovare un lavoro. Io sono diventato giornalista per caso, in modo strano, inaspettato. È vero però che il caso, con la onnipotente benevolenza di un genio delle mille e una notte, ha realizzato il mio sogno. I suoi articoli corredati da disegnino, i suoi sgorbi, come li chiama lui, piacciono molto e non solo al pubblico. Il mitico direttore del Corriere della Sera, Luigi Albertini, lo nota e lo chiama a Milano. Per Barzini è l'inizio di una carriera che si preannuncia carica di soddisfazioni. Ed ora, eccolo Luigi. È nella sede del Corriere della Sera, in via Solferino, dopo aver contattato il principe Scipione Borghese, che attende di incontrarlo, proprio lui, l'uomo che ne è certo, gli permetterà di dare forma al suo sogno, qualcosa di mai realizzato sino a quel momento da nessun giornalista al mondo. Un reportage dall'estero, notizie fresche ogni giorno che appassionino i lettori e facciano decollare le vendite del giornale per cui lavora. L'incontro fra i due uomini è storico. Da un lato, il principe Scipione Borghese è del tutto determinato a tentare l'impresa, ma sa bene che sono luoghi sperduti quelli che lo attendono, dove di certo non esistono fotografi pronti a immortalare ogni sua sosta. Avere qualcuno che documenti l'impresa diventa quanto mai auspicabile perché il mondo ne abbia notizia. Dall'altro lato, Luigi Barzini, comunicatore di grande lungimiranza, che intravede nell'impresa della Pechino-Parigi un potenziale enorme e la possibilità di diventare il primo inviato speciale nella storia del giornalismo. La loro stretta di mano sigla un patto che cambia i destini di entrambi. Penna rossa, penna gialla, penna bianca, penna nera, per gli amici solamente penna sfera. Il tuo nome è diventato una bandiera. Tutto comincia in un verde mattino, due brioche e un cappuccino, e poi di corsa trafelato giù al giornale. Destini incrociati. Destini incrociati vi porta oggi a bordo di una vettura che è entrata a pieno diritto nella storia dell'automobile, compiendo ai primi del Novecento un'impresa ai limiti del possibile. Al volante di questa storica quattro ruote siede il principe Scipione Borghese, erede di uno dei casati più nobili d'Italia, accompagnato dal suo fido meccanico Ettore Guizzardi e da Luigi Barzini, giornalista del Corriere della Sera. L'impresa che questi uomini temerari hanno deciso di affrontare è stata proposta sulle pagine del giornale francese Le Matin. Percorrere i 16.000 chilometri che separano Pechino da Parigi a bordo di un'automobile. Per quegli anni si tratta di una sfida quasi impossibile, viste le condizioni delle strade, spesso inesistenti in quei luoghi sperduti, e dato anche lo sviluppo tecnologico che hanno raggiunto le auto, ancora allo stadio sperimentale, come ricorda il giornalista Michele Marchianò. Questi mezzi primordiali erano fondamentalmente costruiti in legno, perché non c'era un'attrezzatura per poter già pensare ad un telaio o cose del genere, quindi molto legno. Grande capacità dell'ebanista di costruire questo telaio che doveva sopportare il motore, ruote in legno. Dopo essersi conosciuti e avere siglato con una stretta di mano il loro accordo, Scipione Borghese e Luigi Barzini si trovano a dover affrontare tutta una serie di difficoltà organizzative. In particolare il principe deve scegliere la sua compagna di viaggio, l'automobile. Borghese sa perfettamente che la Pechino-Parigi è tutt'altro che una bizzarria da milionari. Nell'annuncio del giornale francese c'è una grande scommessa tecnologica che i promotori sperano possa lanciare la loro industria automobilistica. Stiamo parlando di un mezzo considerato poco più che un oggetto sportivo, che in quel momento non rappresenta ancora, nell'opinione della gente comune, una valida alternativa al treno. La cosa va dimostrata con un'impresa eccezionale, che crea il desiderio di emulazione alla base dello sviluppo delle grandi scoperte umane. Scipione Borghese è seduto alla sua scrivania. Sta stilando un promemoria, raccogliendo tutte le informazioni tecniche a sua disposizione, vagliando il percorso che dovrà compiere, valutandone i pericoli, difficoltà, analizzando le caratteristiche del mezzo indispensabili per il successo dell'impresa. E alla fine non ha dubbi. La sua automobile può essere solo e soltanto una Itala. Il giornalista Roberto Olla ne parla in un suo servizio che mostra la Itala oggi perfettamente restaurata e funzionante nel Museo Biscaretti di Torino. È proprio lei, la vera Itala, integra fino all'ultimo bullone. 100 anni fa al volante sedeva il tecnico Ettore Guizzardi, accanto a lui il principe Scipione Borghese e nel terzo sedile l'inviato del Corriere della Sera Luigi Barzini. La decisione di Borghese di utilizzare una Itala è molto criticata. C'è chi pensa infatti che sia troppo pesante. In particolare il modello da lui scelto, la 3545 HP, una tonnellata e mezzo per 40 cavalli di potenza. In molti lo mettono in guardia, rischia di affondare nel fango, nei terreni paludosi. Ma il principe non ascolta nessuno. Quell'auto, ne è certo, lo porterà alla vittoria. Anzi, fa attuare dalla casa automobilistica una serie di modifiche che diano maggiore solidità alla vettura. La carrozzeria viene studiata dall'allora famosissimo Marcello Alessio, che realizza 3 posti scoperti, enormi serbatoi a vista da 150 litri ciascuno, oltre a quelli per l'acqua e l'olio. Ma soprattutto fa una modifica su precisa richiesta del principe. I parafanghi vengono sostituiti da 4 traverse smontabili ed eventualmente utilizzabili come passerelle d'emergenza per disimpantanarsi e superare ostacoli diversi. Scipione Borghese è intento ai preparativi prima della partenza per la Cina, dove è protagonista con Luigi Barzini dell'impresa automobilistica più incredibile del Novecento, la Pechino-Parigi. Dopo aver studiato nei minimi dettagli la realizzazione del suo mezzo di trasporto, una Itala modificata, è ora concentrato sull'organizzazione del viaggio. Rifornimenti di benzina, permessi di transito, itinerari tra deserti, steppe, taighe, paludi, montagne, valichi, interpreti per il cinese, il mongolo, il tartaro, il russo. Sono settimane che studia le carte dell'esercito imperiale e dello zar, le carte tedesche e quelle della Cina. Valuta le rilevazioni meteorologiche delle varie nazioni interessate al percorso e soprattutto, essendo imparentato con la nobiltà di mezzo mondo, ottiene appoggi che si rivelano preziosi. Fra gli altri, allerta il fratello Livio, incaricato diplomatico a Pechino. Caro fratello, ti prego di organizzarmi una permanenza presso la tua dimora alcune settimane in anticipo rispetto alla partenza del raid. Intendo infatti analizzare i primi 500 chilometri del percorso. E il nostro inviato speciale? Cosa fa in tutto questo Luigi Barzini? In quegli anni le notizie non girano il mondo come avviene oggi. Per il momento esistono ancora forme di comunicazione molto limitate nello spazio e così i resoconti dei viaggi arrivano al grande pubblico quando i partecipanti tornano a casa. Ma Barzini intuisce qualcosa di grande che cambia la storia del giornalismo. Luigi è seduto di fronte al principe Borghese. I preparativi fervono e i due sono elettrizzati. Barzini sta raccontando al suo interlocutore come intende procedere. Non uno sterile racconto dell'impresa una volta giunti a Parigi, sempre che ci si riesca, naturalmente. Quello che ha in mente lui è inviare ogni qualvolta sia possibile notizie fresche attraverso il telegrafo, non solo al suo giornale, il Corriere della Sera, ma anche al Daily Telegraph di Londra, con il quale ha preso accordi. Oggi la figura dell'inviato speciale può apparire quanto di più normale ci sia, ma per quei tempi è una grande innovazione e il principe, uomo di grande intelligenza, lo capisce subito. Promette al giornalista di tenere conto delle stazioni telegrafiche presenti sul territorio. E gli altri partecipanti al raid chi sono? Chi altri dimostra una tal vena di follia? Se in un primo momento sono parecchi coloro che inviano alla redazione del giornale parigino Le Matin i 2000 franchi di cauzione, altrettanti si perderanno, per così dire, per strada. Alla fine, i partecipanti ufficiali, oltre a Borghese e Barzini sulla Itala, rimangono in pochissimi. Il costruttore parigino di tricicli Camille Contal, con il suo Tricar, i fratelli olandesi Spyker e il conte francese Albert de Dion, che insieme a Georges Bouton costruisce automobili. In un dispaccio al giornale, con allegata la quota di iscrizione, quest'ultimo scrive una quanto mai prematura previsione. Vengo a conoscenza di una prova sfida da Pechino a Parigi. Le strade sono abominevoli e spesso non esistono che sulla carta. Ma io credo che se un'automobile vi potrà passare, passerà la De Dion Bouton. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Destini incrociati. Destini incrociati vi porta oggi a Pechino. È il 10 giugno del 1907 e sta partendo una delle imprese più incredibili nella storia dell'automobilismo mondiale, che vede una vettura italiana, la mitica Itala, gareggiare con altre quattro automobili: due De Dion Bouton, una Spyker e una Contal. Al volante della Itala, il principe Scipione Borghese, al suo fianco il fedele meccanico Ettore Guizzardi, mentre sul sedile posteriore, tra due serbatoi colmi di benzina, ecco Luigi Barzini, inviato speciale del Corriere della Sera e per l'occasione anche del Daily Telegraph. Il raid, proposto in forma di sfida sulle pagine del giornale parigino Le Matin con lo scopo di dare risalto alla nascente industria automobilistica francese, ha rischiato di saltare. Appena un giorno prima di salpare da Napoli, alla volta di Pechino con la sua Itala, il principe Borghese riceve infatti un telegramma firmato dagli altri partecipanti alla gara che gli comunicano il loro ritiro. Le difficoltà di questa prova eccezionale, alla luce delle indagini condotte per parecchie settimane, risultano non meno serie di quanto pensassimo il primo giorno. Pechino-Parigi. È un tentativo disperato. Ma la risposta di Borghese, solo 4 laconiche parole, salpo domani da Napoli, mette il gruppo in estremo imbarazzo. E adesso, si dicono, che figura ci facciamo? Architettare una sfida per lanciare l'industria automobilistica francese e poi trovarsi a vederla sostenuta da un'unica vettura italiana, guidata da un principe italiano, accompagnato da un giornalista italiano? Impossibile. La grandeur francese non può accettarlo. Così le Dedion Bouton, seguite a ruota dalla Contal e dalla Spyker, ritirano il loro ritiro. Ed ecco finalmente che si parte. Alle 8 del mattino i motori delle 5 vetture in gara fanno sentire il loro rombo assordante alla gran folla che si è raccolta intorno. Ambasciatori, diplomatici, mandarini, soldati, funzionari, dignitari, oltre ai piloti e ai meccanici, alle prese con bagagli, tende, arnesi di scorta, pezzi di ricambio, taniche di benzina, vettovaglie. Una gran moltitudine di curiosi completa quell'accolita incredibile. Borghese e Barzini incrociano i loro sguardi. L'avventura comincia. I primi chilometri appena usciti da Pechino presentano già un grande ostacolo. I valichi di Nankou e Qiming sono impervi e il traino a braccia delle vetture è inevitabile. Scipione Borghese lo sa già, perché ha percorso a cavallo i primi 500 chilometri alcune settimane prima. Ecco perché la sua auto è stata alleggerita il più possibile. La carrozzeria, i sedili, i serbatoi di riserva e le parti di ricambio sono già in viaggio sui carri trainati da buoi diretti a Calgane, in pianura. Al volante dell'Itala, ridotta a un telaio con motore e postazioni per pilota e passeggeri, per così dire di fortuna, il principe Scipione Borghese sente di avere fatto la scelta giusta. Le altre vetture sono molto più pesanti e impiegano giorni e giorni a compiere il tragitto che l'Itala attraversa in poche ore. Barzini inizia a inviare i primi dispacci. Non v'è che discutere un progetto per finire col trovarlo assurdo. L'entusiasmo si rinvigorisce con l'azione. Ma si perde parlando. Il principe è di scarse parole. Si sente in lui il predominio del cervello sul cuore, della volontà sulla sensibilità. Ho avuto immediatamente fiducia in lui. Da subito appare evidente una posizione molto diversa tra i partecipanti alla competizione. Per gli altri si tratta di una dimostrazione delle potenzialità del nuovo mezzo, l'automobile, tant'è vero che procedono in colonna. Per Borghese è una gara e lui vuole vincerla ad ogni costo. Nessuno può fermarlo. A bordo della Itala, la mitica vettura italiana che sta tentando di compiere i 16.000 chilometri che separano Pechino da Parigi, attraverso territori impervi, spesso privi di strade e luoghi di rifornimento, il principe Scipione Borghese sta parlando con il suo meccanico, Ettore Guizzardi, mentre il suo compagno di avventura, Luigi Barzini, inviato speciale del Corriere della Sera, sta scrivendo alcune memorie di viaggio. Scipione Borghese è contento della sua scelta in fatto di pneumatici. Le altre vetture, infatti, montano gomme Dunlop, ma il principe è un italiano e per la sua vettura, la Itala, il cui nome è già di per sé una dichiarazione di orgoglio patriottico, ha scelto le Pirelli. Un'intuizione felice. Nelle pianure fangose ai confini tra Cina e Mongolia, le caratteristiche tecniche dei pneumatici italiani si rivelano vincenti. E così, pur se tra mille difficoltà, la Itala procede. Uno dei tratti più difficili si rivela essere il percorso lungo il confine mongolo-siberiano, praticabile solo a cavallo. In alcuni momenti è l'ostinazione dei partecipanti che porta avanti le grandi ruote della vettura italiana. E non mancano momenti divertenti. Ascoltate cosa racconta Ludina Barzini, nipote del grande reporter. C'è una meravigliosa fotografia di un gruppo di tartari a cavallo che cercano di andare più veloce della macchina. Poi si fermano, scendono da cavallo e guardano questa macchina e vanno a guardare sotto, perché sono convinti, mentre stanno mettendo benzina nei serbatoi, che sotto ci sia un cavallo. Ettore Guizzardi, lo chauffeur personale di Borghese, non deve procedere a cambi di gomme. Forature non se ne verificano per il momento. Altri guasti al motore meno che mai, tanto che nelle pause del cammino si può rilassare, dedicandosi alla sua attività preferita. Lo descrive Barzini in un altro dispaccio che invia ai giornali. Ettore, la prima volta che l'ho visto, era sdraiato sotto l'Itala, supino, immobile, con le braccia conserte. Al primo momento ho creduto che lavorasse. Invece si divertiva. In viaggio mi sono accorto che quella è una delle sue posizioni favorite, un suo passatempo. Si sdraia sotto l'automobile e la contempla, bullone per bullone, pezzo per pezzo, vite per vite, e si intrattiene a lungo in quegli strani colloqui con la sua macchina. L'attraversamento della foresta siberiana vede un miglioramento della velocità di marcia. Le strade sono decisamente migliori, anche se il clima da caldo secco si tramuta in freddo piovoso. È qui che Scipione Borghese ha un'altra intuizione felice. Sulle cartine a sua disposizione ha visto che la Transbaikalia, la mitica linea ferroviaria, attraversa tutta la Russia. Il principe fa caricare la Itala sui binari e percorre lunghi tratti come fosse un treno, trasportando a bordo anche un funzionario della ferrovia imperiale che segnala l'arrivo dell'automobile nelle stazioni. Passati gli Urali, le difficoltà maggiori sono risolte. La Itala arriva a Mosca il 27 luglio, il 5 agosto a Berlino. Scipione Borghese sente dentro di sé un moto di grande orgoglio. Il suo equipaggio e la sua vettura tutta italiana ce la stanno facendo. Non ha notizia degli altri, anche se qualcosa gli dice che non possono aver fatto meglio di lui. E finalmente, Parigi. All'alba del 10 agosto 1907, l'Itala fa il suo ingresso trionfale nella capitale francese. Quando il principe Borghese spegne il motore in Rue de Poissonnière, davanti alla sede del giornale Le Matin, la folla che accoglie l'Itala è la stessa che ha seguito l'impresa in diretta sulle pagine dei giornali. Gli italiani hanno vinto. 100 anni fa, da Pechino a Parigi, la Itala arrivò 22 giorni prima della seconda macchina. Noi e portò a livelli che sono irraggiungibili ora l'immagine di un'Italia anche industriale. Scipione Borghese incrocia lo sguardo di Luigi Barzini. Hanno passato di tutto insieme, fiumi e foreste, paludi e deserti, lingue incomprensibili, insetti, fame, sete, torride calure e geli improvvisi. Ma la Pechino-Parigi è loro. E gli altri concorrenti? Il triciclo Contral ha rinunciato da tempo. La Spyker entra a Parigi solo 22 giorni dopo. Le due de Dion Bouton impiegano molto di più. È il trionfo dell'automobile e di un'automobile italiana, ma non solo. È la nascita della comunicazione giornalistica moderna, del racconto in diretta del corrispondente, protagonista anch'egli dei fatti che descrive. I dispacci telegrafici, quasi quotidiani, al Corriere della Sera di Milano, al Matin di Parigi, al Daily Telegraph di Londra, sono l'equivalente dei microfoni e delle telecamere di oggi. Milioni di lettori in Europa, che si contendono giorno dopo giorno le edizioni straordinarie dei giornali e seguono come sotto i loro occhi lo svolgersi del viaggio. Un successo completo per i nostri due protagonisti, il principe esploratore e il giornalista inviato speciale. Not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.